Boys and girls, your attention please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Mamma, chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Kappa. E un saluto da Drago. Cos'è questo entusiasmo? È andato bene il weekend? È andato bene il weekend, certo, spero anche per te, sì, spero insomma, per te Kappa, sì. E spero anche per tutti i bambini all'ascolto. Spero che si siano comportati da personcine mature. Ma cosa, mi fai venire l'orticaria? Cos'è personcine mature? Scusa, è l'obiettivo del nostro programma, trasformare, lo dico io, lo diciamo noi, anzi l'ha detto la rete quando ci ha dato il programma da fare. Ah, sì. Trasformare i bambini all'ascolto in brave personcine mature. Secondo me non ci riusciamo. Però adesso basta chiacchiere, ormai il preambolo l'abbiamo fatto e passiamo alle cose serie. Tu quando eri piccolo avevi la paghetta? Sì, però la chiamavo la settimana. Era una paghetta ma la chiamavo la settimana. Perché infatti me la davano. Quando? Ogni settimana. Ma quando? Il giovedì? Il venerdì? Il venerdì. Forse il sabato. È per quello che ti piace il venerdì. Vabbè, certo. E a quanto ammontava questa paghetta? Erano circa, mi sembra, 1500 lire in un periodo in cui, che ne so, il robottino di Gigrobo costava 10.000. Quindi insomma. Vabbè, ti ricordi ancora bene, complimenti. Mi ricordo bene, sì. È lì che ho imparato a dare il giusto valore ai soldi, a risparmiare, così ti compri quello che vuoi, risparmi e poi compri quello che vuoi. Bravo Kappa, ecco. Grazie. Sei un esempio perfetto per i bambini di oggi. A proposito, chissà quanto ammonta la paghetta di questi bambini di oggi, chissà. Il confronto con i miei tempi però è impossibile, perché adesso i modellini di Gigrobo non li fanno più, quindi manca proprio il punto di riferimento. Vabbè, allora potremmo usare classicamente il costo di un hamburger al McDonald's. No, quando ero bambino io McDonald's non esisteva ancora, certo, in Italia. È già la nostra preistoria, i bambini di oggi non ci credono, niente computer, niente MP3. Niente McDonald's. Ma che? E si chiedono: ma in che mondo vivevano questi qua? Un mondo da 1500 lire alla settimana, pari a circa 80 centesimi. Quindi. Ecco. Bene, allora Emma Watson, l'attrice inglese che ha fatto Hermione nella saga di Harry Potter, oggi dovrebbe avere circa 20 anni. E quindi fino a 2 anni fa era minorenne e non aveva accesso ai soldi che si stava guadagnando facendo l'attrice. Però andava alle feste. Non è quel tipo di minorenne. La sua famiglia, come normale, le passava una paghetta, no? Ed era di 50 sterline alla settimana. Che a occhio è già molto di più di 1500 lire, quelle però, che davano a me. Però insomma lei lavorava, poverina. Sì. Tu alla sua età mica dovevi stare lì con Daniel Radcliffe tutto il giorno a girare delle scene una dietro l'altra, poverina. Daniel Radcliffe chi è? È quello che fa Harry Potter. Vabbè, adesso fa le copertine per i giornali gay. Meglio non starci insieme, poverino. No, direbbe qualcuno. Io dovevo stare con mio fratello e mia sorella, quindi, che erano più grandi di me, quindi subire tutte le angherie. Quindi forse era meglio peggio stare... di avere la paghetta. Vabbè, in ogni caso Emma Watson era contentissima delle sue 50 sterline alla settimana, fino al giorno in cui ha compiuto 18 anni e suo padre le ha fatto il discorso. Il discorso le ha detto: quale? Emma, siediti, devo dirti una cosa, tu hai idea di quanti soldi hai guadagnato finora a forza di paghette? E lei: no, sono molti. E lui ha risposto: 20 milioni di sterline, sono tutti in banca e sono tutti tuoi. Ed era una bella notizia, no? E in effetti questo è un caso di persona che non sa di essere ricca, e diciamo che è ricca a sua insaputa. Mi ricordo un bambino di queste parti. Ti ricordi il bambino ex ministro Scajola? Vabbè, lui mica aveva la paghetta, scusa. Quasi, a lui hanno paghettato la casa senza dirgli niente. Vabbè, poi però gliel'hanno detto e... Sì, sì, e lui a differenza di Emma Watson si è arrabbiato parecchio. Sì. Non ha fatto la festa. No. Ha minacciato azioni legali contro i suoi benefattori e addirittura... Siccome considero la politica un'arte nobile, con la P maiuscola, per esercitarla bisogna avere le carte in regola e non avere sospetti. Se dovessi scoprire che la mia abitazione fosse stata pagata in parte da altri senza saperne motivo, il tornaconto, l'interesse, i miei legali eserciteranno lezioni necessarie per l'annullamento del contratto di compravendita. Grazie. Chiedo asilo! E ora, bambini, ricreazione! Aia, che male. Ma chi è? Ma bambino Alberto, ma che cosa hai fatto? Un bende cerotti, tutto fasciato. Sono volato giù dalle scale. Ma poveretto, ma qui all'asilo? Ma no, nel ristorante dei ciechi. Degli ipovedenti, come dicono i miei genitori. Ma veramente non capisco. Ma sì, dai, ne avrete sentito parlare, no? Ma di cosa? È un ristorante dove ceni al buio, no? Per solidarietà verso i ciechi. Cioè gli ipovedenti, no? Che poi sono ciechi, quindi è la stessa cosa. Aia, però cosa vuol dire? Guarda aia. Che esistono ste cose. C'è anche a Milano, all'Istituto dei Ciechi, proprio un percorso che fai al buio con un non vedente che sì. ti fa capire che cosa vuol dire vivere senza vedere. E arrivi sì, fino sì. al bar e ordini il cappuccino senza sì. vedere. Cosa? Sì, quelle robe lì per comunisti col grano in tasca. Ma dai. Vabbè, dai. Ma smettila, non è vero. È anche un'esperienza radiofonica per chi volesse farla. Senti un po', qualunque cazzata consumistica, basta che abbia proprio un leggero sfondo sociale, allora quella va bene, eh? Va bene, sei sempre polemico, è una allora cosa vanno a mangiare nel ristorante dei ciechi, no? Che poi tra l'altro è carissimo e si mangia pure mica tanto bene, si mangia come messa. Ma vabbè, dai. Ma cosa vuol dire? Sempre lì a protestare, Alberto, è una cosa interessante, dovrebbe esserti piaciuta, il buio. Infatti, guardate come sono ridotto. Vabbè, aia, madonna. Cos'è? Che dolore. Te l'ho detto, no? Sì, ho capito. Perché lì arrivi, no? E si mette male subito. Ma perché? Perché tu entri da fuori? Che c'è luce, no? Sì. Entri dentro e improvvisamente come al cinema. Ma cinema senza le lucine, sì. Neanche l'indicazione della toilette. Buio totale. Buio, sì. E che poi, a me è venuto anche un po' di paura, La paura del buio. Un po' di paura ce l'ho. Vabbè, un bambino, certo, cioè, ma c'erano la mamma e il papà, ti sei stretto a loro, no? Però loro mi hanno subito staccato, no? E mi hanno detto... Smettila, dai, ma pensa sia di cieco. Ma come? Dovevi abituarti a vivere al buio. E invece ci vedi? Ma dov'è? Che poi implicito c'è, dovresti pure sentirti in colpa. Ma non è vero, ma queste no? sono tue interpretazioni, sì, dai. Sì, ti lamenti tanto per tutto tu, bambino Albertosi. Ma vabbè. Ma pensa a quei poveri bambini della tua età che non ci vedono. Ma scusa, ma anche i tuoi genitori ti chiamano bambino Albertosi? Sì. No, ma no. E già tanto che li ho convinti con Albertosi, erano partiti con Albertazzi? No, vabbè. Almeno Albertosi. Ho capito, ma poi com'è andata? Cos'è successo? Sei tutto bendato, cioè? Cos'è successo? Sei dato a cena. Allora, a un certo punto, no? Eravamo lì e mi scappava la pipì. Ho chiesto a mia mamma se mi accompagnava al bagno, no? È normale. E lei subito, cosa? Ma dai, ma pensa se eri cieco! Se eri cieco imparavi a fare la pipì senza chiedere alla mamma, no? Dai, vai da solo! Ma io non so dove è la toilette qui, mica siamo in casa, non siamo nemmeno all'asilo. E lei, ma pensa se eri cieco? Ma sì. E magari in terra straniera da solo. Ma no, ma non è che potevi chiedere alla mamma, no? E invece ci vedi, sottolineato ci vedi, e quindi vai da solo. Ma è cattivissima la mamma, Beh, comunista? No, vabbè, ma non è quello. E poi è catto comunista, c'è il senso di colpa prima. Comunque, alla fine sono andato da solo, no? E ho aperto la porta sbagliata, ovviamente. E lì c'era una scala. E sono rotolato giù. Vabbè, ma poverino. Vabbè, però a quel punto tua mamma si sarà preoccupata, no? Preoccupata? Ma figurati! Anzi, mi fa... Senti un po', bambino Albertosi, ti sei fatto appena male al braccio? Vabbè. Cosa c'è da lamentarti? Ma pensa se eri cieco? Ma cosa? Cieco e volavi giù dalle scale. No, vabbè, ma... Albertosi. Era buio. Invece... Era come essere cieco. Invece mi sono fatto male al ginocchio. E tra l'altro mi sa pure di avere qualche costola increnata, Perché appena mi piego così... Senti il dolore. Sì, ma quelle purtroppo niente, te le tieni. Devi solo stare attento che non ti buchi il polmone, perché potrebbe capitare quello. Ma se non gli buco il polmone non è così grave, perché alla fine ci vedi, no? Sì, ci vedo. Allora sei fortunato. No, io ci vedo. Io ci vedo anche bene. Va bene. Tu ci vedi bene? Sì. Allora vedi un po' di andare a dare via il cucù, cucù. Il aprile non c'è più. È ritornato il maggio del canto del cucù. E ora, bambini, e tutti a casa. Macchina, camion, due macchine, una roulotte. Sì, ce li ho gli occhi, camion, Drago, lo vedo che ci sono le macchine, i camion, le roulotte, lo vedo. E vedi anche che non ci lasciano attraversare. Sì, vedrai che però fra poco attraversiamo. Tra poco, su. Tra poco, figura, sei ancora lì che ci speri. Tra poco qualcuno si ferma. Ma tu sei un illuso, sei. Te l'ho già detto, è impossibile che non ci sia mai un attimo di tregua. Deve esserci, è la legge dei grandi numeri. Mai nessuno che ci venga a prendere. Per forza, i nostri nonni ormai sono tutti morti. Beh, ma uno straccio di babysitter? Ti piacerebbe, Se fossi io il baby della situazione, sì. Invece niente. Ma non lo vedono che c'è un asilo? Cioè dovrebbero rallentare di default. I bambini li vengono a prendere in macchina. Allora facciamoci dare un passaggio. Sì, ma figurati. Due adulti dall'aria poco raccomandabile, soprattutto tu. Non ci faranno mai salire sul SUV, dai. E allora? E allora aspettiamo. Ma che palle! Puoi sempre far finta di essere incinta. No, dai, lasciamo stare. Fai finta di essere incinta. Ma no, dai. Perché no? Guarda che le donne in stato interessante le fanno sempre attraversare. Vabbè, ti metti la parrucca. No. Dai, no, ce l'ho sempre qua per te. Dai. Adesso tira fuori bene la pancia. Tanto ne hai, gonfia sta pancia. Oh, là. Così. Così? No, adesso basta. Basta, sei già in uno stato interessante. Fermo. Oh, no, non ce la faccio fermarmi. Drago, vedi, no, ma aiuto, ti stai aiuto, alzando. Aiuto, capa, ma stai giù, volando via come un palloncino. Aiuto, almeno attraverso, ciao. Torniamo domani, stessa ora, stesso asilo. E scriveteci a chiedoasilo@radio24.it. Yeah.